Someone told me that some motherfucker wild one dance, so I make you dance. Ci sono sogni che non splendono, sogni che non splendono perché si tengono, si trattengono, e quindi balla il tuo inno alla vita, balla, e la tua storia non sarà mai finita, mai finita. Balla fino a salita finita e mettila nel culo alla sfiga. Vivi e balla la fortuna di essere ancora vivo sotto qualunque pioggia. Lascia il senso perché la pioggia non disseta ma li lava. Balla la tua vita, la tua vita. Balla, balla, sogna, balla mentre la realtà affonda. Balla, balla, balla, sogna e balla mentre la realtà affonda. Mille pagine di cuore sulle pagine che ho dentro nel profondo corrono. Mille pagine di cuore sulle pagine che ho dentro nel profondo corrono. Amore abbracciami questa sera, ora che ami ogni nota, ogni strofa. Balla con me tutta la tua linfa, la mia linfa nel centro del mondo. Lascia tutto alle spalle, lascia adesso la realtà andare a fondo. Balla, balla, sogna, balla mentre la realtà affonda. Ci sono sogni che non splendono, sogni perché si trattengono, si tengono. Balla il tuo inno alla vita, balla, e la tua storia non fermarla. Balla, balla a salita finita, e mettila nel culo alla sfiga. Vivi e balla la fortuna di essere ancora vivo sotto qualunque pioggia. Urla che sei vivo, lascia il senso perché la pioggia non disseta ma dilava. La pioggia non disseta ma dilava, dilava, dilava, dilava, fuoco di lava, fuoco di lava, fuoco di lava. Balla, balla, balla, sogna e balla mentre la realtà affonda, mentre la realtà affonda, affonda, affonda. Amore abbracciami questa sera, ora che mi ami ogni nota, ogni strofa più vera. Amore abbracciami questa sera, ora che mi ami ogni nota, ogni strofa ora più vera. Ora più vera, ora più vera. Ci sono sogni che non splendono, sogni perché si tengono, si trattengono. Balla il tuo inno alla vita, balla, e la tua storia non fermarla, non fermarla, non, non fermarla, non fermarla. Balla fino a salita finita e mettila nel culo alla sfiga. Balla fino a salita finita e mettila nel culo alla sfiga. Vivi e balla la fortuna di essere ancora vivo sotto qualunque pioggia. Lascia il senso perché la pioggia non disseta ma dilava, ma dilava. Fuoco come dilava, la pioggia non disseta ma dilava, dilava. Balla, balla, balla, sogna, balla mentre la realtà affonda, affonda, affonda, affonda, affonda. Mentre la realtà affonda, mentre la realtà affonda.